Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Dall'embargo imposto nel 1962 al disgelo avviato dal presidente Obama. Ora che alla Casa Bianca sta per insediarsi Donald Trump e a pochi giorni dalla scomparsa di Fidel Castro, rischia di interrompersi quel percorso avviato da Barack Obama nel riavvicinamento dei rapporti tra Cuba e Washington? Un tema che oggi affronteremo soprattutto con l'angolo visuale dell'economia e dei rapporti commerciali tra i due paesi. Lo facciamo in compagnia di Franco Vaselli, giornalista e scrittore, che ha appena pubblicato per Cantagalli un libro dal titolo Se questo è l'uomo. Un libro che rilegge anche con documenti inediti le principali vicende di questo ultimo mezzo secolo, fino a quello che viene definito il primo miracolo diplomatico di Papa Francesco, attraverso appunto la riapertura delle relazioni diplomatiche tra Washington e Cuba. Buonasera e benvenuto, Franco. Buonasera. Torniamo indietro insieme all'inizio degli anni 60 del Novecento. Le ambasciate americana a L'Avana e cubana a Washington sono chiuse dal 1961. Dal 77 i rapporti tra le due nazioni sono gestiti da uffici di rappresentanza aperti nelle ambasciate della Svizzera, nelle capitali dei suoi paesi. Ma in tutti questi anni il nodo gordiano che ha reso difficili i rapporti bilaterali, oltre alle diverse posizioni politiche, è stato rappresentato soprattutto dall'embargo economico che ha quasi strangolato Cuba. I primi provvedimenti risalgono al 6 luglio 1960, quando il Congresso degli Stati Uniti vota una proposta fatta dal presidente Eisenhower per ridurre o sopprimere le importazioni di zucchero dall'Havana, che rappresentavano all'epoca l'80% del totale della moneta estera incassata dai cubani. Il 7 febbraio 62, John Fitzgerald Kennedy, succeduto ad Eisenhower, impone l'embargo su ogni tipo di scambio con il proclama 3447. Partiamo proprio da qui, Franco, dall'inizio dell'embargo. Quali le motivazioni, quali le conseguenze? Le motivazioni ufficiali naturalmente derivano dal fatto che all'arrivo al potere di Fidel Castro provoca tutta una serie di provvedimenti, tutte le proprietà che esistevano a Cuba in gran parte in mano a grandi proprietari e anche a società americane vengono nazionalizzate. Questo è il motivo ufficiale. Man mano che queste nazionalizzazioni si ampliano, l'embargo viene a sua volta rafforzato. Ecco, l'embargo, Franco, ci porta diritti all'altro grande nodo gordiano, come tu lo definisci nel tuo libro, tra Cuba e Washington, quello appunto della cosiddetta crisi dei missili del 62, di cui parleremo tra breve, perché nel tuo libro ci sono anche delle letture, se vogliamo, un po' diverse rispetto a quelle che siamo stati abituati ad avere in questi anni. Crisi dei missili che prelude appunto all'embargo. Ascoltiamo insieme questo altro passaggio del tuo libro. Martedì 16 ottobre 1962, George McBundy, consigliere del presidente Kennedy per la sicurezza nazionale, si reca alla Casa Bianca. Nella sua borsa ha le fotografie scattate a Cuba dagli aerei spia americani U-2. Le immagini provano che l'Unione Sovietica ha installato nell'isola del comandante Fidel Castro una base di missili nucleari, con bombe atomiche e all'idrogeno, che i sovietici possono facilmente sganciare sugli Stati Uniti prima di essere intercettati. Alle ore 19 del 22 ottobre, sei giorni dopo, Kennedy appare in televisione e fa un annuncio che mette in allarme il mondo intero. Il presidente degli Stati Uniti accusa l'Unione Sovietica di minacciare il suo paese con i missili piazzati a Cuba. Informa di aver deciso di dichiarare lo stato di emergenza, ordina il blocco dell'isola caraibica e l'immediato allontanamento dei civili americani dalla base che Washington ha a Guantanamo, in terra cubana. Appena due giorni dopo, il blocco diventa operativo. e le navi statunitensi formano un'invalicabile cintura attorno al territorio cubano. Ecco, Franco, tu hai seguito questi eventi come inviato dell'ANSA, in quegli anni li conosci molto bene, e in una parte del libro parli della guerra di missili a Cuba come di un bluff. E quindi cosa accadde? Un bluff dovuto al fatto che era già in atto una politica nella quale avevano un ruolo essenziale i servizi segreti dei due paesi, cioè si era creato nel mondo una specie di impero in condominio tra Russia e Stati Uniti attraverso, come si ricorderà, le famose zone di influenza, per cui tra le due potenze c'era un accordo a non intervenire mai in quei paesi che erano sotto l'influenza o degli Stati Uniti o dell'Unione Sovietica. La crisi dei missili a Cuba, secondo anche documentazioni che vengono citate nel libro, era invece gestita appunto da servizi segreti che mandavano messaggi e procedevano anche sulla base di quelle che erano le reazioni internazionali. Sta di fatto che lo stesso dibattito che avvenne alle Nazioni Unite risentì notevolmente. Se noi andiamo a rivedere il libro, li riporta gli interventi del delegato americano e di quello russo, si capisce che evidentemente tutto faceva parte di un gioco per dimostrare al mondo che solo Unione Sovietica e America potevano gestire il pianeta e evitare quindi quella che sarebbe stata e potrebbe essere una guerra mondiale di gravissima portata. Quindi in sostanza quella crisi che ha fatto tremare il mondo per 2 settimane, ha fatto temere in piena guerra fredda che si potesse tornare addirittura a una guerra nucleare. Sostanzialmente era frutto di una, se capisco bene dal tuo libro, di una tacita intesa tra Kennedy e Khrushchev, peraltro motivata in gran parte da questioni di politica interna. Esattamente, non è un caso appunto che proprio a seguito perfino la data di questa crisi e la soluzione della crisi coincide proprio con le elezioni a medio termine americane, dalle quali Kennedy esce vittorioso. E noi sappiamo invece che le elezioni a medio termine normalmente favoriscono l'opposizione e non il partito di governo. Lo stesso era successo in Russia, dove naturalmente anche Khrushchev aveva i suoi problemi. E dopo questo episodio, dove appunto lì si racconta anche proprio la partecipazione che c'è stata sia a livello di forze navali sia a livello di militari, questo diciamo anche la dinamica di questa grande crisi. Lo dimostra, certo. Dimostra e proprio da lì nasce tra l'altro la istituzione del famoso telefono rosso, che sarebbe stato poi utilizzato fino a quando i mezzi più moderni lo hanno sostituito. Ecco, ma tornando agli aspetti più, come dire, economico-commerciali di questo lungo, difficile rapporto tra Cuba e Washington, che adesso il presidente Obama ha voluto in qualche modo interrompere. Adesso vediamo cosa accadrà con la presidenza Trump, ma in effetti l'embargo imposto dagli Stati Uniti ha procurato problemi enormi all'economia di Cuba. Nel tuo libro vengono citati anche dati molto precisi da questo punto di vista. Sì, sono danni enormi e soprattutto mi sembra che non è stata mai posto il problema vero del perché questo embargo, che apparentemente era diciamo provocato da tutti i tentativi messi in atto, cioè era a sostegno di tutti quei tentativi messi in atto da Washington per abbattere il regime cubano dopo l'arrivo al potere di Castro. Però non è possibile, cioè se noi guardiamo quella che era la situazione sul terreno, noi abbiamo da un lato una potenza come gli Stati Uniti e dall'altro un'isola di 11 milioni di abitanti e un territorio che è un terzo di quello dell'Italia, un'isola certo, non ricca. Sì. E che quale era il vero motivo per cui Washington guardava con tutta questa attenzione a questa specie di zanzara? È perché, e qui sono stato un po' sorpreso che con la morte di Fidel Castro non si sia citata la nascita della Tricontinentale. Certo. In quegli anni con l'avvento di Castro e poi con Che Guevara, Cuba esporta le rivolte in tutti i paesi del mondo. Cioè, il libro cita esattamente un anno in cui ci sono rivolte in Asia, in Africa e in America Latina. Questo secondo me è il vero motivo per cui Washington ha messo in atto 5.780 azioni terroristiche e 700 sabotaggi a infrastrutture economiche e 636 tentativi di eliminare Castro, non certamente perché c'era un governo meno democratico di tanti altri. E infatti quando finisce, quando la Tricontinentale, lì si racconta tra l'altro anche come i delegati che sono arrivati a L'Avana per la Costituzione, alcuni sono stati uccisi prima, altri hanno dovuto viaggiare per 2 mesi per fare un percorso di poche ore, sempre tutti seguiti e fotografati dai servizi segreti. Dai servizi segreti, certo, bene. Perché la storia dimostra che il vero motivo per cui la zanzara cubana dava fastidio agli Stati Uniti era la rivoluzione che voleva esportare. Certo. Allora, molte grazie a Franco Vaselli, autore, lo ripetiamo, di questo libro che si chiama Se questo è l'uomo, edito da Cantagalli. Buona serata e grazie ancora.